un errore, il più grande errore. E questo è ancora il fottutissimo Mystery Level. Il mio ciuffo, my brother, man. Se la situazione è un po' strana. Viaggio nel futuro come fra in Futurama. Gente che spera, gente che sclera, per fare a gara chi si tagga per primo la sera. Sopra social network, faccio social sport per ottenere più feedback di tutta New York. Non ce la faccio mica senza una tromba amica che voglia realizzare qualche bad work. Tengo aggiornato di stato su dove, con chi e chi non sono stato, perché mi sono lasciato, in che cosa ho creduto, che cosa ho cercato e che cosa ho cagato. Tag e like con le minchiate, fai strike, forse per i casi tuoi se ancora non lo fai, dai, ma perché dai, c'hai 12 anni e ancora non la dai. La situazione è strana, non riesco più a capire, in mezzo a tutti quanti mi sembra di impazzire. Non so come ti senti, ma io sto per svenire, comincio a pensare che sto a degenerare. Fotografami, taggami, guardami, commentami, condividimi, parlami, fermati, chiedimi, vedimi, onorami, venerami, supplicami, inchinati, pregami, andiamo avanti. Ma se pretendi rispetto, premetto che non lo darei ad un bimbetto sopra social network, e se te già così fai il VIP giusto perché hai bevuto un po' di G. La situazione è strana, non riesco più a capire. La situazione è strana, non riesco più a capire. Non so come ti senti, ma io sto per svenire. Non so come ti senti, ma io sto per svenire. La situazione è strana, non riesco più a capire. In mezzo a tutti quanti mi sembra di impazzire. Non so come ti senti, ma io sto per svenire. Comincio a pensare che sto a degenerare. Tutti commentano, minchiate, non so perché, roba seria, non so in cura nessuno. Allora ci provo col vostro stilo per vedere se qualcuno capisce davvero. Ma quando mai non fermarti sui quattro quarti? Se ormai quattro gatti, ascolta quel che canti, mentre tutti gli altri si fanno solo vanti di cose da grandi, ma sono undicenni. La parola morale è scomparsa insieme alla parola lavorare. Da una crisi economica a una crisi generica, a vedere quattro zoccoli in TV che con un politico si sverginano. Per dare un esempio, quei personaggi che riempiono le tendenze e la moda. Poi non mi stupisco se tutte le disco trovo ragazzine che per fare un pompino fanno la coda. La situazione è strana, non riesco più a capire.